falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Ci sono rivoluzioni che iniziano da un singolo gesto, o magari da un incontro tra due persone con idee diverse che capiscono di aver bisogno l'una dell'altra per intraprendere una battaglia che non sarebbero in grado di condurre in solitudine. Ci sono uomini che crescono credendo fortemente in una ideologia, però che successivamente capiscono le ragioni di un fallimento, riescono a rimediare a degli errori compiuti da intere generazioni. Perché dico questo? Perché oggi noi racconteremo la storia della liberazione di un paese, del Sudafrica, dal regime dell'apartheid, e la storia di due uomini. Il primo, ovviamente, vi verrà in mente, è Nelson Mandela, però il protagonista centrale della nostra puntata non è Mandela, è l'uomo che lo ha liberato dopo 27 anni di prigione, ed è un uomo che ha cambiato idea, ha avuto un modo doloroso di rivedere le sue posizioni e alla fine si è, se così si può dire, redento, perché ha consentito al Sudafrica di diventare uno stato libero, moderno. L'uomo di cui parliamo è l'ex presidente della Repubblica del Sudafrica, Frederick de Klerk. La storia del Sudafrica affonda le sue radici ovviamente nel colonialismo, perché prima gli ugonotti francesi si spostarono in Sudafrica per scappare dalle persecuzioni religiose, poi arrivarono gli olandesi e alla fine i britannici, tutti erano attirati dalle grandi risorse del paese, prima di tutto i diamanti e poi le terre fertili, delle condizioni che potevano rendere questo stato una potenza economica, perché il Sudafrica non è nel cuore dell'Africa calda e in preda alla siccità. Bene, de Klerk, nome olandese infatti, nasce in un paese in cui una ricca comunità bianca è ormai radicata nel paese, ha preso possesso del territorio, della politica, detiene il controllo, il potere. E quando Frederick nasce il 18 marzo del 39, lui ha già un destino segnato davanti a sé, il destino della politica, perché il padre è stato presidente del Senato e ha ricoperto più volte la carica di ministro, e così tutti i membri della famiglia fino al bisnonno. He was a very lovable child. Era un bambino molto attento, dalla mente aperta, dotato di un buon senso dell'umorismo, un bambino che era sempre concentrato affinché tutti andassero d'accordo in casa. Così lo descrive il fratello Willem. Dunque, abbiamo detto che la famiglia ha forti disponibilità economiche, così lui può frequentare le scuole migliori, può laurearsi, diventa avvocato, poi diventa procuratore. Nel 72 lascia la professione ed entra a far parte del National Party, che è il partito conservatore che lo candida alle successive elezioni. Così Frederick de Klerk, a 33 anni, entra in Parlamento ed è un luogo dove è destinato a rimanere praticamente per sempre. What drove me and what drove the responsible leadership of the National Party. Ciò che mi ha spinto ad affrontare la mia carriera politica all'interno del National Party è stata la volontà di riconquistare la libertà nelle regioni del Transvaal e dell'Orange Free State, che avevano sofferto la dominazione inglese, allo scopo di stabilire un governo di autodeterminazione. On the basis of self-determination. Il Sudafrica è l'unione di stati diversi, con diversi gruppi etnici, con ognuno una cultura e una storia. Il National Party ha un solo modo per governare quest'unione, garantendo la stabilità: tenere separate le etnie di colore dal gruppo di razza bianca, quello che discende dai colonialisti. Il gruppo che è più istruito, più ricco, ha forza politica, ha forza economica, insomma, la separazione, quella che nella lingua dei bianchi si tradurrà con apartheid. La politica conservatrice condotta dal National Party si basa sulla separazione dei gruppi etnici che condividono il territorio del Sudafrica, e poi c'è un'esposizione di principi dettati dalla necessità di salvaguardare le culture più antiche. Quindi lo scopo è evitare contaminazioni da parte di nuove idee, quelle che affondano le radici nel comunismo, da loro molto temuto. Insomma, dietro a tutto questo c'è evidentemente una politica repressiva che di fatto fatto priva la comunità nera, che è la più numerosa del paese, di tutti i fondamentali diritti civili: il diritto di voto, il diritto al lavoro equo e paritario, il diritto allo studio. Quindi li fregano anche per le generazioni successive. Ci sono mezzi pubblici per bianchi e per neri, negozi per soli neri. Insomma, in pochi anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, il Sudafrica diventa una oligarchia in cui pochi ricchi e aristocratici, ovviamente bianchi, quelli che discendono dalle famiglie dei colonialisti, governano una popolazione per lo più analfabeta, ridotta alla fame dalla totale mancanza di diritti e oltretutto divisa da lotte tribali interne. Frederick de Klerk sta crescendo, la sua carriera sta avendo una evoluzione molto positiva e come membro del National Party è sempre più vicino alla ristretta cerchia dei politici che contano, quelli che governano effettivamente il paese, e quindi non può che condividere le idee di separazione che sono alla base dell'apartheid e quindi della garanzia di successo da parte sempre degli stessi. Però le sue convinzioni nascono anche da una, come dire, sincera fiducia in un modello politico ideale. When I was a young man of 21 and 25, quando ero giovane, tra i 21 e i 25 anni, credevo fermamente che la separazione portasse a un più alto livello di giustizia per tutti in Sudafrica, con la creazione dell'Unione di Stati. Esattamente come oggi molti credono che la soluzione al problema della Palestina e di Israele sia la convivenza di due stati distinti. Ma quando sono entrato attivamente in politica, mi sono reso conto che questa idea non avrebbe funzionato. It's not working. E così il conservatore Frederick de Klerk comincia a avere delle idee un po' più liberali, addirittura incontra il leader dell'African National Congress, cioè il partito dei neri, e questo ovviamente suscita scalpore all'interno del suo partito. Però malgrado questo, la sua carriera lo porta comunque a ricoprire posizioni sempre più vicine al presidente, ministro dell'energia, poi ministro dell'interno, ministro dell'istruzione. Agli inizi degli anni Ottanta ormai de Klerk è un politico di primo piano, anche se qualcuno comincia a sospettare una sorta di deviazionismo dalle convinzioni più radicali e radicate del suo partito. Il falco e il gabbiano. È evidente che ogni minuto della storia della liberazione del popolo nero in Sudafrica corrisponde a ogni minuto della vita dell'antagonista, diciamo, di de Klerk, di Madiba, di Nelson Mandela, che già nell'agosto del 62 viene arrestato per la sua attività sovversiva all'interno del braccio armato dell'African National Congress, il partito di opposizione dei neri. È un partito che, non avendo la possibilità di votare, cerca di rovesciare il regime dell'apartheid con atti di sabotaggio. Insomma, per Mandela si aprono le porte di Robben Island, che è l'isola penitenziaria da cui è impossibile scappare. Lui ci rimarrà per 18 lunghissimi anni, fino al 1980, quando verrà trasferito in una prigione vicino a Città del Capo. Inizierà a essere trattato con più rispetto, il mondo comincerà a accorgersi della presenza di Mandela, gli verrà dato il permesso di leggere, di studiare, di scrivere lettere, che vengono consegnate ai destinatari dopo un'attenta lettura da parte delle autorità di censura. Però Mandela comincia a essere un personaggio globale. Nel frattempo il presidente del Sudafrica è Peter Willem Botha, che è un uomo duro, è un inflessibile, è uno fermamente convinto dei principi dell'apartheid, è un uomo dalle idee molto diverse da Frederick de Klerk. I was convinced in my heart and mind. Ero convinto nel profondo del mio cuore che fosse necessario per i leader del futuro essere pronti ad ascoltare tutte le opinioni. A partire dagli inizi degli anni Ottanta, il sentimento popolare cambiò. Dovevamo andare oltre. Le riforme dovevano essere più profonde e radicali. Che è un uomo accorto, è un politico abile, ha un forte attaccamento alla sua terra. Per lui il Sudafrica è il luogo dove deve esserci prosperità, progresso. Però negli anni Ottanta questi obiettivi sono impossibili da raggiungere, perché il paese è diviso è isolato dal mondo. Le Nazioni Unite hanno dichiarato l'embargo totale sui prodotti sudafricani. L'economia è segnata ovviamente da questa totale mancanza di rapporti commerciali con l'estero. Perfino nello sport, il Comitato Olimpico ha espulso tutti gli atleti sudafricani, che ovviamente sono bianchi, da tutte le manifestazioni sportive internazionali. Quindi niente Olimpiadi, niente campionati del mondo, un isolamento molto pericoloso. De Klerk comincia a rendersi conto che l'idea dello Stato perfetto, basato sul concetto di separazione delle culture, è sbagliato, anche perché questa non è una separazione, è una prevaricazione di una cultura sull'altra. Insomma, diventa lui una piccola ma ferma voce di opposizione all'interno del suo stesso partito, e questo non gli impedisce di diventare presidente nel 1989, e questo scatena l'ira del Conservative Party, che è l'ala più estremista del Parlamento, quella che appoggia l'ex presidente Botta. Non ho avuto una specie di esperienza di redenzione improvvisa, in base alla quale una sera sono andato a dormire convinto che i principi di separazione, che poi hanno dato vita all'apartheid, fossero giusti, e la mattina dopo mi sono svegliato rendendomi conto che tutto fosse sbagliato. Appunto, il cambiamento di De Klerk è lento, è un travaglio interiore molto complesso, immagino, perché lui è un osservatore, ascolta tutte le voci, anche quelle di chi sostiene l'opposizione a quello che ormai in tutto il mondo viene definito un regime, viene definito una dittatura. Insomma, lui capisce piano piano che i tempi stanno cambiando, che anche la popolazione bianca del Sudafrica sta cambiando opinione, ci sono le nuove generazioni che sono sempre più desiderose di vivere in un paese dove sono necessarie delle riforme costituzionali molto profonde. La libertà va restituita anche a chi non ce l'ha mai avuta. Vi ricordate quando abbiamo raccontato la storia di Sixto Rodriguez, il cantante americano le cui canzoni erano diventate la colonna sonora dei giovani universitari sudafricani, a sua insaputa peraltro? Bene, sta cambiando tutta l'area. Anche De Klerk si rende conto che ormai non si può tornare indietro, ci vuole solo un colpo d'ala per far partire questo cambiamento. E nel 1989 ci sono le elezioni presidenziali. De Klerk ormai è il leader indiscusso del suo partito e di quel gruppo di riformisti che, come lui, credono che un cambiamento radicale sia fondamentale per il futuro del Sudafrica. E De Klerk ha incontrato i leader dell'African National Congress, ha avuto uno scambio di idee e di lettere con Nelson Mandela, ha maturato l'idea che per il Sudafrica ormai fosse indispensabile uscire dall'isolamento, e questo si poteva fare solo dando via a un processo di riforme per restituire dignità agli oppressi, per restituire prosperità alla nazione. Insomma, quello che anima De Klerk non è solo il sentimento romantico, ma è anche un realismo pragmatico che è necessario in un momento storico preciso. Let me firstly say it was... Lasciatemi dire chiaramente che il National Party a un certo punto aveva troppo potere, e la storia ci insegna che seppe usare male quel potere. Ma è lo stesso National Party ad aver ammesso le proprie colpe, ad aver fatto ammenda e dato il via a un processo totalmente nuovo che ha spezzato un sistema stagnante. Breaking away from that old flawed system. Il 1989 è un anno fondamentale del secolo scorso, perché è l'anno della caduta del muro di Berlino, e quindi con un effetto domino che portò al crollo del comunismo. Questo è un aspetto importante sulla strada intrapresa in Sudafrica, perché il Partito Nazionalista ha sempre agito in conservazione di un potere per impedire al blocco comunista di prendere possesso del Sudafrica, come era accaduto in molti stati europei. Nel momento in cui crolla questo spauracchio, cambia proprio lo scenario, e anche questa paura si affievolisce. Lui capisce che il paese è pronto per un atto di forza importante, è un atto che tutto il mondo sta chiedendo al Sudafrica. Bisogna riavvicinare la comunità bianca a quella nera, che è sempre più in rivolta. È un provvedimento che in quel momento nessuno si aspetta, soprattutto da uno come De Klerk, che tutto sommato è liberale ma è del Partito Conservatore. Bene, la svolta è la liberazione di Madiba, la liberazione di Nelson Mandela. il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Frederick de Klerk, uno degli uomini che più hanno contribuito alla storia negli ultimi 30-40 anni, e io lo definirei, visto da un'altra angolazione, il Gorbaciov del Sudafrica, perché anche lui deve cavalcare e gestire un cambiamento epocale. Lui è il presidente del National Party, il partito che per più di mezzo secolo ha governato il Sudafrica instaurando il regime dell'apartheid. Bene, si trova de Klerk a fare i conti con un mondo che è cambiato. Intanto non c'è più la paura del blocco comunista, perché in Europa è crollato il muro di Berlino e con esso il comunismo. E poi invece c'è un'opposizione interna che è sempre più ferma ed è sempre più condivisa da tutto il mondo. E poi ci sono gruppi sempre più numerosi di bianchi, gli afrikaners, che in qualche modo si stanno rendendo conto dell'isolamento terribile del quale soffre il Sudafrica. Insomma, il processo di cambiamento di de Klerk è un processo che affonda le radici negli anni, è un processo lento, ragionato. Lui si accorge di non credere più in quello stato ideale che i suoi predecessori avevano imposto con tutti i mezzi, anche con il sangue, negando ai neri ogni fondamentale diritto costituzionale, impedendo loro di votare e soprattutto di studiare. Anche lui, de Klerk, capisce che i tempi sono maturi per un cambiamento, ma sa benissimo che ogni cambiamento deve essere gestito in modo incruento, in modo graduale, con grande diplomazia. E intanto c'è Nelson Mandela, che ormai è diventato un caso mondiale, detenuto da 27 anni, tutta la comunità internazionale è al suo fianco a difenderlo, anche se da lontano. E nel settembre 89 de Klerk viene nominato Presidente della Repubblica, succedendo al ben diverso Botha, che era il grande sostenitore dell'apartheid. Fin dal primo giorno del suo insediamento de Klerk fa capire al mondo che le riforme sono necessarie e che il Sudafrica deve avere una nuova costituzione. Al mio discorso di insediamento sentii una forte responsabilità. La mia mente era già fermamente convinta che per il Sudafrica era necessario un salto di qualità per effettuare un cambiamento fondamentale. E de Klerk lo definisce un quantum leap, che è una espressione della fisica quantistica, che significa una svolta epocale per cambiare le cose, per rimettere in gioco il destino di un paese che ormai è ridotto alla fame dall'embargo economico e è ridotto anche all'isolamento culturale. Bene, il 2 febbraio 1990, nel suo discorso di insediamento, de Klerk vive il suo colpo d'ala, dichiara al mondo intero le sue intenzioni. Oggi sono in grado di annunciare importanti decisioni. In deroga alle leggi stabilite nel 1913 e 1936, dichiaro che la messa al bando dell'African National Congress e di tutte le altre organizzazioni per la liberazione del Sudafrica è revocata. Tutte le persone detenute in base all'applicazione di quelle leggi saranno identificate e liberate. In conseguenza di questi provvedimenti, il governo ha preso la ferma decisione che Mr. Mandela venga immediatamente liberato incondizionatamente. Ovviamente questo discorso è uno shock, è un pugno nello stomaco di tutta la parte conservatrice del partito. Molti membri del Parlamento si alzano e abbandonano l'aula, e gli altri comunque si scambiano sguardi interrogativi, perché de Klerk non aveva comunicato a nessuno la sua decisione. E gli stessi membri dell'African National Congress che sono in esilio rimangono interdetti, però la gente si riversa nelle strade per festeggiare la notizia. È come il crollo del muro di Berlino, perché anche lì è crollato un muro. In pursuance of my opening address to Parliament, I am now in a position to announce that Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Verster prison on Sunday, the 11th of February, at about 3 p.m. 11 febbraio 1990, il sogno di tanti sudafricani e di tutte le persone che nel mondo hanno per anni richiesto, manifestato, scritto per la liberazione di Mandela diventa realtà. De Klerk annuncia in una conferenza stampa la liberazione di quello che tutti chiamano Madiba. È lui, il leader indiscusso della protesta contro l'apartheid, un simbolo globale di rivendicazione da parte degli oppressi nei confronti dei dominatori. È un momento storico per il Sudafrica, perché nei momenti di transizione spesso sono successe vendette, ritorsioni, insomma pensiamo a quello che è successo in Italia nel 45. Ecco, bisogna gestire con delicatezza la situazione, è il momento dei negoziati, perché bisogna ricostruire uno stato di diritto in cui bianchi e neri siano uguali, che non ci sia spazio per le vendette personali. E gli anni che seguono sono anni difficili, scontri politici, tensioni, violenza, la polizia che deve comunque mantenere l'ordine, la situazione che in certi momenti, in diversi momenti, rischia di andare fuori controllo. Solo la figura carismatica di Mandela riesce a contenere l'esplosione di violenza che è la conseguenza della povertà. È una violenza che spesso si scatena non solo verso la comunità bianca, ma anche tra le diverse tribù di colore, perché il crollo dell'apartheid genera una serie di guerriglie, di rancori tra le varie tribù, e il Sudafrica potrebbe tranquillamente suddividersi in 9 o 10 stati distinti, come è successo all'Unione Sovietica, alla Jugoslavia. Questo non accade proprio per il grandissimo lavoro di negoziazione e di cucitura tra Mandela e de Klerk. Un passo alla volta loro abbattono tutte le barriere che impediscono la pacificazione del paese. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 1993 to Nelson Mandela and Frederick Willem de Klerk. Un altro momento epocale, perché due persone vengono insignite del premio Nobel per la pace, proprio per legittimare il grande lavoro di ricostruzione che è stato fatto in Sudafrica. Cioè Mandela e de Klerk vengono accomunati in questo grande cambiamento. È una decisione molto saggia del comitato per il Nobel. E intanto il 27 aprile del 94 ci sono le prime elezioni libere in Sudafrica, quelle in cui i bianchi e i neri hanno diritto di voto. Risultato importante per de Klerk, anche se sa che questo significherà un cambio al vertice dal quale lui uscirà sconfitto. Infatti il presidente diventa Mandela e de Klerk assume la carica di vicepresidente. Insomma, il Sudafrica è pronto a camminare con le sue gambe. E negli anni successivi de Klerk comincia lentamente a ritirarsi dalla scena politica, si dedica a raccontare in molte conferenze il suo cambiamento, la sua redenzione. E ci sono anche dei detrattori che ancora oggi considerano de Klerk un opportunista, uno che è riuscito a uscire, a dribblare una situazione irrecuperabile rinnegando il suo passato. Addirittura qualcuno pensa che il suo premio Nobel sia immeritato, perché pensano che de Klerk sia uno che è solo riuscito a trovare un modo per uscire a testa alta da una situazione che stava degenerando nella violenza. Forse però l'insegnamento migliore può arrivare proprio da Nelson Mandela, dalla sua commissione per la verità e la riconciliazione, che è un tribunale speciale con il quale il Sudafrica ricostruisce una convivenza pacifica tra i popoli nel segno del perdono. E quelli che prima erano nemici adesso devono essere visti in modo diverso per ricostruire assieme il futuro di un paese. Noi dobbiamo combattere il crimine e lo dobbiamo fare insieme, perché la nostra nazione non deve essere sopraffatta dal crimine, e questo omicidio non deve essere più importante di un altro. Sono anni molto duri. De Klerk viene colpito in prima persona dalla spirale di violenza che infiamma il Sudafrica per molti anni. La ex moglie Mari, che nel dicembre del 2001 viene assassinata. È un assassinio, non è una vendetta politica, è proprio un normale assassinio a opera di delinquenti comuni, quelli che ci troviamo a commentare anche da noi quotidianamente. È la fame a muovere le mani degli assassini e l'intolleranza, però De Klerk sa che il Sudafrica è un adolescente irrequieto, cioè può compiere delle azioni sbagliate, ma deve essere seguito, deve essere corretto, perché la strada è molto lunga e difficile prima che questo adolescente possa diventare un adulto. Oggi De Klerk vive in Sudafrica, partecipa a conferenze, gioca a golf, e per tutti è stato l'altro uomo, quello che ha consentito a Mandela di tornare in libertà per liberare la sua nazione. De Klerk è quello del colpo d'ala che in qualche modo ha mosso il destino di un paese e di un continente, forse anche del mondo. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare al Falco il Gabbiano @radio24.it se anche voi conoscete una storia che merita di essere raccontata. Se no, seguitemi, interagite con me sul sito di Radio 24, sui miei social, Facebook, Twitter, Instagram, sui nostri social, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.